Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile Radio 24, i fatti delle ultime settimane riportano in auge il tema della criminalità rumena. Ebbene, all'epoca del grave episodio dello stupro e omicidio della povera signora Reggiani, commesso dal rumeno Romulus Mailat, in un servizio del TG5 intervistarono un alto funzionario di polizia rumena, che disse apertamente che i suoi connazionali entrano in Italia sapendo che le nostre leggi sono molto permissive e che da loro il giudice applica invece sempre il massimo della pena. Ogni commento è superfluo. A tal proposito, faccio un appello ai radioascoltatori più informati di me, affinché tramite il programma Lettere a Radio 24 facciano sapere a noi italiani, troppo permissivi, a che cosa andrebbero invece incontro questi criminali se commettessero certi tipi di reato in altri stati. Temo che il confronto sia impietoso. Cordiali saluti, Marco, provincia di Novara. Gentile direttore, con riferimento alla trasmissione Parliamo con l'elefante di ieri mattina, ho sentito il ministro Tremonti parlare dei 4 milioni di partita IVA come un vanto dell'Italia. Ma siamo sicuri che avere 4 milioni di partita IVA sia questo gran sintomo di vitalità? Attualmente le imprese, e non solo quelle piccole, stanno costringendo quelli che prima avevano contratti con qualche garanzia, malattie, ferie, straordinari, a passare alle partita IVA per non perdere il lavoro. La partita IVA, chi la apre, costa molto di più e garantisce molto di meno. È vero che ci sono molti professionisti e autonomi in Italia, ma non credo che dotare di partita IVA gli operatori di call center, i garzoni di bottega e le commesse sia un sintomo di vitalità. È solo un cappio al collo per chi la apre e fa aumentare il numero di pagamenti parziali in nero. In compenso fa accampare i commercialisti. Federico. Venerdì 14 novembre 2008 la Cassazione ha deciso che l'alimentazione forzata che tiene in vita Eluana in coma irreversibile e allo stato vegetativo da 17 anni può essere interrotta. La notizia è stata commentata a fondo dalla stampa di vario colore e in modo fortemente negativo dalla Chiesa. Ogni cittadino giudica diversamente in base alla propria esperienza di vita. A me il caso di Eluana fa venire in mente i fumetti o i racconti che leggevo da piccolo sulle fantastiche storie che narravano di uomini costruiti da scienziati in laboratori misteriosi, pieni di macchinari strani, di pentole fumose, di alambicchi, di circuiti elettrici. Il mito di Frankenstein, insomma, che eccitava la mia mente e mi faceva illudere che queste cose si potessero veramente realizzare. Oggi, 50-60 anni più tardi, la penso ovviamente in modo differente. Il caso di Eluana, tenuta in vita artificialmente, assomiglia molto però a quello che faceva lo scienziato pazzo nel suo laboratorio misterioso. Solo che in questo caso la persona non si muove, non parla, non cammina, non sorride, non capisce. Da 17 anni è tenuta artificialmente in quelle condizioni. Contro natura, perché senza l'alimentazione forzata morirebbe naturalmente. È un caso molto peggiore della creatura costruita artificialmente in laboratorio dal dottor Frankenstein. Quello si muoveva, parlava, camminava e mangiava in maniera autonoma. Mi sembra anche che non si possa dire, come molti giornali o commentatori fanno, che Eluana si trova in uno stato vegetativo, perché è un'affermazione falsa. Un vegetale è dotato di vita autonoma, nasce, cresce e si nutre in maniera assolutamente autonoma. Fa le foglie in primavera, le perde in autunno, fa i fiori, i frutti, si riproduce, si ammala e muore naturalmente. Come si può paragonare la vita di Eluana ad una pianta? Posso quindi concludere in base a quello che penso, condizionato solo dalla mia morale che si è costruita pian piano nel tempo, in base a una logica che è basata sull'osservazione dei fatti naturali, che tenere artificialmente in vita Eluana è un fatto mostruoso contro natura. Luigi, Genova. Caro direttore, non posso ancora credere che un ministro contornato di professionisti abbia inventato una cosa come la social card. Una vera offesa per tutti coloro che davvero non arrivano a fine mese. Non posso pensare che dei tecnici strapagati abbiano tirato fuori un'idea così incivile. Non posso credere che questi tecnici con fior di lauree e master abbiano fatto una cosa del genere, che offende chi ne ha davvero bisogno. Come si fa a non capire che questa tessera scheda in maniera ben visibile chi è povero? Come si fa a mettere il ticket a chi già subisce la pesante umiliazione di non farcela più? Come si fa a trasformare una scheda in un vero atto di elemosina, con tanto di regole precise anche nello spendere? Non sarebbe stato meglio un aumento delle pensioni? Le voglio raccontare che esiste per il computer un gioco davvero molto bello. Nei panni di un neo sindaco bisogna gestire un certo budget nel creare un'intera società fatta di strade, case, industrie e agricoltura, con tutto quello che serve per gestire un intero paese. Un gioco molto complesso che tiene conto di tutto quello che serve per far crescere ed evolvere una società di persone, proprio come nella realtà. Il problema energetico, dello sviluppo delle case, delle strade, della sua manutenzione, della sicurezza, dell'inquinamento, dello sviluppo lavorativo, economico e commerciale. Proprio una simulazione vera e propria di una società complessa, di come viviamo realmente la nostra, con addirittura lo sciopero dei cittadini, se si amministra male qualcosa. Con questo gioco ci farei un test d'ingresso per tutti coloro che vorrebbero fare una carriera politica, come per le facoltà universitarie. Ho paura che allora ne boccerebbe davvero tanta di gente. Un abbraccio, Mario. Gentile direttore, nonostante credo che sia esagerato l'uso che si fa oggi delle intercettazioni, ritengo che non sia giusto limitare così tanto la possibilità di intercettare i tanti farabutti che ci sono in Italia. La possibilità poi di utilizzare le riprese delle telecamere di sorveglianza solo dopo l'autorizzazione dei giudici pare veramente ridicolo. Non dimentichiamo che solo negli ultimi giorni sono stati presi i ragazzi che a Guidonia hanno commesso quell'infame delitto ed è stato smontato l'alibi di Sollecito grazie alle intercettazioni. E sempre grazie alle intercettazioni abbiamo scoperto le malefatte di Bigluciano, abbiamo sentito di gente che comprava banche, eccetera, eccetera. Cose che se dovessero rivelarsi non penalmente rilevanti, lo sono moralmente. Sicuramente la legge va cambiata, ma come ha detto il procuratore Grasso, in questo modo si impedisce il lavoro di indagine della magistratura. Se serve ad arrestare un solo criminale, possono ascoltare le mie telefonate, leggere le mie email, fare intercettazioni ambientali. Non c'è nulla di penalmente rilevante nella mia vita e ne sono orgoglioso. Il premio dell'essere onesto è anche veder punito il criminale. Rocco. L'astronoma Margherita Hack, da tempo immemorabile, dichiara il suo ateismo. Lo scrive e lo dice apertamente alla radio e alla televisione. Io mi dichiaro da sempre sorpreso dalle sue dichiarazioni così nette. Una persona come lei, che scruta l'universo, non può non riconoscerne la grandezza e la meraviglia. A partire proprio dalla grandezza infinita del cielo. Come può dichiararsi atea? Mi parrebbe un atteggiamento più coerente affermare la propria piccolezza di fronte a qualcosa di immensamente grande e sorprendente. Io penso che tutto ciò che esiste non si spiega da solo. Qualcuno ha programmato il computer del mondo e della nostra vita. Deve esistere qualcosa, qualcuno, che sostiene ogni cosa. Se c'è un giardino pieno di fiori coloratissimi e ben coltivati, c'è sicuramente un giardiniere che lo cura. È logico servirsi di un orologio negando nello stesso tempo l'esistenza dell'orologiaio, diceva l'anticlericale Voltaire, che appunto se la prendeva con gli atei e indicava loro il cielo pieno di stelle. Questo meraviglioso ordine che scorgiamo nel cielo, sosteneva anche Newton, non può che essere opera di un essere onnipotente e onnisciente. È piuttosto l'ateo a credere in molte cose inspiegabili. Crede nella casa, ma non nell'architetto. Crede nel quadro, ma non nel pittore. Crede nel figlio, ma non nel padre che lo ha messo al mondo. Se consideriamo la natura nel suo insieme e le leggi che la regolano, diventa inspiegabile questo comportamento intelligente da parte di corpi tutto sommato bruti e senza cervello. È come se un uomo gettasse una dozzina di dadi e tutti insieme si voltassero sul 6 per un miliardo di volte. Non sarebbe spiegabile senza una mente che programmi il trucco. Mi piacerebbe molto che la Hack ascoltasse queste mie parole. Umberto. Scusate, ma questa volta non riesco a resistere e devo proprio segnalare il mio malessere da cittadina. Ascoltando le notizie sulle varie inaugurazioni di anni giudiziari, ho avuto uno sgradevole senso di disturbo, di fastidio e di dissonanza. Com'è che nel modernissimo 2009, con tutti i problemi ai quali si potrebbe dare precedenza, ci ritroviamo queste costose, farraginose, noiose e inutili cerimonie medioevaleggianti? A sentire i discorsoni di questi baroni giudici vestiti come nel 1500, sembra di essere presi in giro. La giustizia che dice che la giustizia è lenta. La giustizia che denuncia la 151esima posizione nella classifica dell'inefficienza. Ma chi vogliono prendere in giro questi super pagati esponenti di un'altra manifesta casta? In questo paese di disgraziati che subiscono l'arroganza di malintenzionati, truffatori e mafiosi, l'illecito esiste perché c'è un sistema che lo permette. Anzi, l'illegalità è florida proprio perché non c'è nessuna intenzione del sistema di cambiare. e lo si nota benissimo durante queste autocelebrazioni. Abbiamo 4 soldati per le strade per fare un minimo di vigilanza. Ma se il governo mandasse in pensione forzata almeno la metà dei giudici che hanno riempito le aule delle cerimonie, scommetto che risolveremmo almeno altrettanta parte di inefficienza e di costi del sistema giustizia. Grazie per il servizio prezioso che svolgete ogni giorno. Fabia. Gentile Radio 24, scrivo in merito al caso Battisti. Ritengo che l'attenzione focalizzata sulla decisione ideologica del ministro della giustizia brasiliano, Genro, di evitare l'estradizione in Italia di Battisti, decisione che fa diventare i nostri forcaioli di sinistra maestri di garantismo e ventilare azioni sempre più immaginifiche da parte di esponenti di AN, rischi di farci dimenticare la sciagurata politica francese che è alla base di tutta questa faccenda. Perché per fortuna il governo Lula non è eterno, mentre la dottrina Mitterrand dura da anni e anni. Da parte mia confido che il governo italiano non molli la presa, senza per questo inimicarsi il popolo brasiliano, che è molto meno compatto di quanto si pensi su questa faccenda, ma che in sede europea inizi un dibattito serio sulla politica transalpina che fa di criminali dei rifugiati politici. Tanto più che la Corte di Giustizia europea ha respinto a suo tempo l'istanza francese di evitare l'estradizione a Battisti. Allora, se siamo tutti membri di un'unione, vuol dire che siamo stati riconosciuti degni per garantismo e principi fondamentali dei nostri ordinamenti di farne parte. Non si può fare un'unione di primi della classe garantiti e parenti poveri sempre messi alla berlina. Ed è questo che in Europa, come italiani, non diciamo. Si debbono riconoscere i difetti del sistema giudiziario italiano, ma non si può trattare un paese membro di una stessa unione di stati democratici come una dittatura, tanto più che non mi pare che i nostri ex BR & Company abbiano goduto di un trattamento particolarmente duro rispetto ai loro colleghi di altri paesi europei. Cordiali saluti, Edoardo. Sul caso Battisti la penso per una volta come Berlusconi. Frattini fa bene a fare ricorso presso la Suprema Corte brasiliana, ma poi se la Corte decide di non estradare Battisti, basta così. Non giocare la partita Italia-Brasile, giocarla con il lutto al braccio, non andare in vacanze in Brasile, boicottare i prodotti brasiliani, sono solo fesserie. Che servono solo a Giorgia Meloni, ministra tutto d'un pezzo per le politiche giovanili e le attività sportive, ad accendere i riflettori su di sé, a Ignazio La Russa, ministro annoiato della difesa, a dichiarare guerra a uno Stato sovrano, alla Zanzara a tirare le 20:45. Basta, per favore, parliamo d'altro. Guido. Gentile direttore, certi giorni a leggere il giornale viene il mal di stomaco. In giorni come questi, in cui si legge di violenze e torture su un disabile, in cui si legge di due amiche, poco più che bambine, che picchiano una compagna di classe per un ragazzo, in cui si legge di una madre e una nonna che assalgono una maestra solo per rimprovero all'alunna sbagliata. In giorni così, il mondo sembra impazzito. E come si fa a resistere alla tentazione di voltare pagina, spegnere la TV, chiudere gli occhi? Ma la frustrazione, lo sconforto, la disillusione rimangono vive e diventa persino difficile convincersi delle parole del neopresidente Obama. Parole commoventi, evocative, eppure dolorose, perché suonano come promesse difficili da mantenere, anche se la voglia di crederci è grande. Quindi, mi perdoni la domanda, so già che risposte non ce ne sono, ma a quale mondo dobbiamo guardare? Morgana. Cara Morgana, lei mi chiede a quale mondo dobbiamo guardare. Se mi permette, non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al mondo, alla sua complessità, alle sue ingiustizie, ma anche alle tante buone notizie che ci sono, anche se fanno fatica a emergere nella realtà quotidiana. Possiamo guardare al nuovo sogno americano, alle promesse del nuovo presidente che da qualche giorno ha la responsabilità della prima potenza mondiale. Ma soprattutto dobbiamo guardare attorno a noi, al nostro prossimo, alla nostra città, ai tanti esempi di apertura e solidarietà che non fanno notizia perché fanno parte della vita normale, della consuetudine quotidiana. E dobbiamo soprattutto guardare a noi stessi, a quello che possiamo fare ognuno al proprio posto. È giusto indignarci verso le sconfitte dell'umanità, ma la speranza in un mondo migliore deve sempre accompagnarci. Egregio direttore, che noia mortale. In questo paese si sente parlare per mesi, per anni, di alcuni problemi senza che si venga mai a capo di niente. La Englaro, il testamento biologico, la riforma della giustizia, gli enti inutili, gli sprechi nel mondo della sanità, il federalismo fiscale, il conflitto di interessi, il lodo Alfano e via andare. A proposito di legge ad personam, come si può definire il fatto che deputati e senatori abbiano la pensione dopo 30 mesi di attività? E gli aumenti di stipendio che si votano da soli nello spazio di 48 ore? Che tipo di leggi sarebbero? Tralasciando tutto il resto con il quale si potrebbe riempire un quaderno. E la legge per il rimborso delle spese elettorali per sostituire il finanziamento pubblico ai partiti, bocciato con un referendum? Rimborso ancora più oneroso del finanziamento pubblico stesso? Questa legge, come la si potrebbe definire? E allora la smettano di fare le anime belle a corrente alternata. Perché con il referendum sul lodo Alfano non si è chiesto anche alla gente cosa pensa di queste cosucce? Perché non vanno tutti a casa? Perché la gente li vota? Mi risponderà lei. Ha ragione, direttore, ma io non vado a votarli. Sono trattato come un suddito, ma ho ancora la libertà di non andare alle urne. Vede? Anch'io mi sono fatto la mia piccola legge morale ad personam. La saluto, direttore, e grazie per l'attenzione. Carlo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.